La mia esperienza con i podcast inizia a fine 2017, quando faccio la conoscenza del podcast Morti di Bestemmie e scopro così il grande mondo di Runtime Radio. Da lì inizia una piccola collaborazione con i membri appunto di questa radio, prima di tutti con Alex Raccuglia, con cui abbiamo realizzato un episodio assieme di MDB Samba Radio. Ce ne sono stati altri dopo di questo. Poi ovviamente con Simone Pizzi, con tutti gli altri, per cui ho fatto dei lavori di, diciamo così, da speaker. E poi mi sono deciso, a un certo punto mi sono deciso a fare qualcosa di mio e ho creato Oro. La mia intenzione non era all'inizio di entrare dentro Runtime, ma volevo fare le cose un po' per cavoli miei, sperimentare, fare i miei piccoli errori. E poi durante la pandemia Runtime Radio mi propone di entrare nel loro palinsesto con i miei podcast. Io accetto e ad oggi sono uno degli speaker effettivamente di questa radio. Ecco, partecipo alle trasmissioni serali quando capita, ho il mio podcast mattutino che appunto pubblico su Runtime Radio e spero per il futuro di riuscire a raccontare storie, di parlare di tanti argomenti diversi e di migliorare sia dal punto di vista di sia come speaker, sia naturalmente come creatore di contenuti, sia come scrittore di programmi e di fare tantissimi altri progetti assieme a questo collettivo meraviglioso.